Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi, finalmente benvenuti. Oggi diamo inizio a questa trasmissione che vale per due. Infatti oggi parleremo della salute della mamma e di quella del suo bambino, ma direi di andare per ordine e di sentire i titoli del nostro sommario. Sei in gravidanza? Dimmi come mangi. Collo, specchio degli anni. Contro il logorio del traffico, usa lo yoga. Sì, oggi parliamo di donne, parliamo di mamme. E un tempo alle mamme, alle donne che erano in attesa, veniva suggerito di mangiare per due. Questa indicazione, che ha dato tanto filo da torcere agli addetti ai lavori, quindi ai medici, ai ginecologi, ai dietologi, io vorrei riprenderla e cambiare un po' il significato, perché è giusto dire alle mamme in attesa che devono mangiare per due, ma non intendendo di aumentare la quantità, ma pensare alla qualità di quello che introducono. Proprio perché dalla loro dieta, oltre che la loro salute, dipende anche la salute del loro bambino. Oggi avremo modo di parlarne con tanti ospiti. Abbiamo la professoressa Irene Cetin, che è primario di ostetricia e ginecologia all'ospedale Sacco, Università di Milano, che è già venuta in diverse occasioni a trovarci ed è tornata. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ci faremo aiutare anche dal dottor Fulvio Muzio, che è primario di dietologia sempre all'ospedale Sacco. Buongiorno a tutti. Ma noi abbiamo detto, seguiremo la mamma in gravidanza e poi l'accompagneremo a casa con il suo pupetto, e allora i nostri pupetti li affideremo al professor Gian Vincenzo Zuccotti, che è primario di pediatria al Sacco, all'Università sempre di Milano. E in linea con noi abbiamo una mamma meravigliosa, una giovane mamma, è Oara Borselli, attrice, conduttrice televisiva. Ciao Oara, benvenuta. Buongiorno, buongiorno e grazie per avermi invitata, perché in questa condizione si parla sempre volentieri di questi argomenti, non parlerei d'altro, quindi per me è un grande piacere. Bene, allora, tu rappresenti un po' tutte le mamme in attesa, peccato che tu non sia qua in studio con noi, ma ti voglio seduta al mio fianco perché approfitterai anche tu dei nostri esperti e quindi ti farai portavoce dei tanti dubbi che magari le mamme in gravidanza stanno proprio, su cui stanno misurandosi le donne in gravidanza. Quindi Oara, molto sul tuo aiuto. Allora io direi di iniziare dal prima, perché è molto importante che le donne che intendono diventare mamme curino in modo particolare la loro dieta. Allora chiederei subito al dottor Muzio: c'è una dieta che in qualche modo aiuta la fertilità, aiuta a diventare mamme? Diciamo di sì, che ci sono delle buone evidenze che si può favorire almeno un certo tipo di fertilità, che è quella dovuta a una buona ovulazione, perché poi ci sono altre situazioni che sono legate invece a situazioni fisiche sulle quali non c'è molto, diciamo, su cui si può intervenire. Però sulla base proprio anche di studi molto accurati, molto diffusi, si è potuto vedere che si può cercare di modulare la dieta in modo tale che si riesca ad ottenere una maggiore facilità proprio di ottenere una fertilità ovulare. Una delle prime attenzioni a cui bisogna fare sicuramente è rivolta al peso corporeo. È importante, sarebbe importante prepararsi alla gravidanza mantenendo o cercando di portare il peso corporeo in un'area che è quella, diciamo, compresa in un indice di massa corporea, già parola un po' complicata, anche se oggi come oggi questo concetto nel vocabolario è abbastanza comune. Diffuso. Sì, diciamo, è un rapporto tra il peso corporeo e l'altezza al quadrato. Senza entrare in ulteriori dettagli, diciamo che questo questa ideale zona dovrebbe essere compresa tra un valore minimo di 20 e un valore massimo di 25. Con un maggior, diciamo, risultato in termini di probabilità situato però sulla zona più bassa, intorno al 21 di questo valore. E questo per quanto riguarda l'aspetto peso corporeo. Ci sono poi degli aspetti che sono legati proprio alla qualità dell'alimentazione. Ecco, cosa bisognerebbe mangiare? Allora, innanzitutto possiamo concentrarci a livello di proteine, senz'altro favorire un buon mix tra proteine di origine animale e proteine di origine vegetale. vegetale. Quindi alternare la carne, i pesci, le uova con i legumi. Esattamente, perché le proteine di origine vegetale non sono facilmente reperibili e sicuramente la categoria di alimenti vegetali che ne contengono di più sono proprio i legumi. Chiediamo subito a Ara, la tua dieta era perfetta, seguiva queste indicazioni prima di aspettare il bambino? Bambino, bambina, io, non sappiamo. Onestamente devo dire che tendenzialmente credo di mangiare abbastanza bene, ma proprio per una questione di gusto, quindi questo mi aiuta già parecchio, ovvero io sono proprio un amante di cibi estremamente semplici e abbastanza naturali, se così li vogliamo definire, quindi non è che abbia dovuto fare dei grossi stravolgimenti. Ara, in fondo le indicazioni del dottor Muzio, che sì. Quindi delle indicazioni di tutte le persone che si occupano in modo serio di nutrizione, sono quelle di seguire una dieta mediterranea, quindi esatto. Le donne italiane sono più fortunate. Ma professoressa Cettini, il dottor Muzio accennava al discorso peso corporeo. Il peso corporeo è molto importante perché le donne in sovrappeso hanno più difficoltà, vero, a rimanere a entrare in gravidanza? Sì, assolutamente, perché l'aumento del grasso periferico fa produrre alcune sostanze che sono chiamate citochine, che sono comunque delle sostanze che aumentano il livello di infiammazione generale. E questo ha diversi effetti. Adesso sappiamo, per esempio, che nell'adulto può dare quella che viene chiamata la sindrome metabolica, e cioè una predisposizione ad avere tutta una serie di patologie cardiovascolari, endocrine, eccetera, eccetera. E anche chiaramente può influire proprio sull'ovulazione, che è un meccanismo endocrino legato, certo, agli ormoni. Quindi la donna sovrappeso ha più difficoltà ad ovulare, anche la donna sottopeso. Sottopeso però, questo è importante. Assolutamente. Con questa epidemia, sì, di ragazzine che sono estremamente attente al peso. Anzi, il primo effetto è che non hanno neanche le mestruazioni. Ma io starei ancora nel periodo precedente alla gravidanza. Perché, professoressa Cettin, voi insistete sull'assunzione di acido folico. In pratica cosa dite? Alle donne in età fertile che accarezzano l'idea di diventare mamme, assumete acido folico. Ara, tu l'hai fatto? Sì, come no, certo. Io, tra l'altro, io ho iniziato circa un mesetto prima. Io, quando ho deciso di provare per rimanere incinta, già da un mese prima ho cominciato ad assumere acido folico e lo sto prendendo tuttora. Io Quanto? Sono al sesto mese di gravidanza e la mia ginecologa, non so perché, insomma, mi dice di non sospenderlo, non perché ci siano delle patologie particolari, ma proprio perché dico male non fa, continua a prenderlo. Professoressa Cettin, fa bene? Fa benissimo, perché l'acido folico entra in diversi processi metabolici, tra cui la formazione per esempio dell'emoglobina, ed è molto utile durante tutta la gravidanza. Quindi se vogliamo supplementare, entriamo in un ordine di idee comunque di dare una supplementazione e di non volere quindi sopperire con la nutrizione, che però in certi campi non è così semplice, è meglio continuare a prenderlo per tutta la gravidanza. E voi continuate a seguirci. Adesso poi entreremo poi nel dettaglio dell'acido folico. Se folina si trova negli alimenti, ma è necessario integrarlo. Accompagneremo la mamma e la nostra mamma di oggi, che è Ara Borselli. Restate con noi. Una mela al giorno. E adesso voltiamo pagina, ci occupiamo di una parte del nostro corpo che invecchia molto facilmente, il nostro collo. In linea con noi abbiamo la dottoressa Serri, che ogni settimana ci aiuta a prenderci cura della nostra pelle, del nostro aspetto, soprattutto cercando di mantenere un'immagine molto naturale. La dottoressa Serri ci sta insegnando a invecchiare bene. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Dermatologa, presidente di Skin, che è l'Associazione di Dermatologia Ecologica. Dottoressa, il collo si segna? Il collo si segna, ecco, sì. Tanto che per un tempo si portava le signore con l'età, quando l'età avanzava, iniziavano a portare anche collane diverse, i collier più aderenti al collo, più alti, proprio per mascherare queste rughe che sicuramente regalano al collo un aspetto vecchieggiante, un po' rilassato, anche se devo dire che a me personalmente non dà tanto fastidio, insomma mi danno più fastidio le occhiaie che la ruga nel collo. Però lei ha un collo straordinario. ordinario, diciamolo, quello è anche un regalo della natura e dei propri cromosomi, perché c'è chi invecchia di più e c'è chi invecchia di meno, è proprio molto costituzionale il livello di invecchiamento del proprio collo. Lei ha proprio un collo da cigno, Nicoletta, diciamolo. Veramente? Ma sì, che sì, carina, perché lei mi vuole bene. Senta, dottoressa, intanto c'è una cosa che secondo me dimentichiamo, ma anche nel quotidiano, è di dare la crema sul collo. Ci occupiamo sempre di spalmarla sul viso, ma sul collo chissà come mai non scendiamo, o se lo facciamo, lo facciamo a metà, e di lì dovremmo anche scendere sino al décolleté. Di questo ne avevamo parlato proprio insieme a lei, ricordo, sì, l'importanza del massaggio. Sì, sì, infatti, bisogna sempre scendere, sia quando ci si lava, perché spesso ci si dimentica di pulire bene il collo, invece bisogna, quando ci si strucca e ci si lava il viso, pulire bene anche il collo, e poi applicare la crema e applicare la protezione solare anche sul collo, non solo davanti ma anche lateralmente. Ai lati del collo, in chi non mette la protezione solare, rischia di venire quella che ha un nome astruso, la poichilodermia di Sivat. In realtà sono quelle macchie brune, rossastre, che vengono ai lati del collo delle persone che stanno tanto al sole. Comunque il collo è abbastanza difficile da ringiovanire con metodiche naturali, sì, per cui bisogna agire sulla prevenzione. La prevenzione consiste nel dormire con un cuscino il più basso possibile, chiaramente, perché questo permette di tenere il collo disteso e di fare in modo che non si formino rughe e pieghe. Che sono un po' l'anticamera delle rughe, le pieghe. E certamente, quelle, mano a mano che la pelle diventa meno elastica nel corso degli anni, quelle che sono pieghe che vanno e vengono, progressivamente si trasformano in pieghe permanenti, ovvero in rughe. Quindi guardatevi al mattino quando vi alzate, là dove ci sono pieghe, purtroppo un domani arriveranno le rughe, ma se voi giocate preventivamente, magari no. Esatto, poi si possono usare cosmetici elasticizzanti. Oggi si usano dei trattamenti anche negli istituti, in certi istituti di estetica, di chiamiamolo ringiovanimento del collo, basati su radiofrequenze e su funzionano, che possono funzionare leggermente, bisogna valutare perché la risposta è individuale, però almeno non fanno male, e questo per me è già molto. Io personalmente faccio delle biorivitalizzazioni sul collo, sia con sostanze omeopatiche sia con acido ialuronico non crosslinkato, quindi riassorbibile, e anche questo può aiutare. Certamente quando c'è il crollo del platisma, il crollo, e che è il muscolo che è davanti al collo, subito sotto la pelle, e il crollo proprio della cute, ovvero quando c'è l'invecchiamento gravitario, si può ben poco contrattare. Uno va naturali. Con la Dolce Vita, dottoressa Serri, si mette un bel collier alto con la Dolce Vita, un foulard e via. Le gorgiere sono bellissime, ecco, elegantissime, eleganti. Belle gorgiere di perle che illuminano il volto, vero? O di pietre colorate. Io sono anch'io pro collane, certamente ridefinire un po' il contorno e migliorare il collo può essere fatto nella maniera proprio più radicale solo dal chirurgo col bisturi. Intanto noi cerchiamo di utilizzare cuscini bassi, di darci la crema e massaggi. Ecco, il massaggio è molto utile anche fatto al collo. Ce lo possiamo fare anche da sole, alla mattina, alla sera, quando mettiamo la crema. Spendere quei 30 secondi in più nel massaggiare, questo migliora la microcircolazione, favorisce il drenaggio e comunque aiuta la tonicità. Tutto della direzione del massaggio, sempre dall'alto verso il basso, o possiamo ad esempio sotto il mento provare un altro? Sotto il mento si può prendere per esempio il mento tra pollice e indice, e con un'azione di leggerissimo pizzicottamento andare dal mento verso, lungo il bordo verso l'orecchio. Perfetto, lo sto provando. Dottoressa Serri, mi sento già più giovane. Intanto la saluto, la ringrazio, le auguro una buona giornata. Grazie anche a lei, a presto. Pronto soccorso. Allora, stiamo tornando ad affrontare il tema del giorno. Parliamo di mamme e dei loro bambini. Stiamo seguendo una mamma in particolare, una mamma famosa, al quinto mese di gravidanza, sta entrando nel sesto, Ara Borselli, che mi fa da co-conduttrice, da voce alle mamme. Oara. Sì, sì, come no, infatti rinnovo il saluto, diciamo che io da diretta interessata in questo momento, perché come hai detto sono entrata già nel sesto mese, quindi posso dare una mia testimonianza diretta di quello che sto vivendo, che sto facendo passo passo, insomma, questo percorso. Abbiamo sottolineato l'importanza dell'assunzione di acido folico, ci sono delle indicazioni precise, professoressa Cetin, che si sente di dare alle nostre amiche da casa? Sì, l'ideale è iniziarlo almeno un mese prima del concepimento, perché è stato proprio visto che noi siamo tutti in Europa un pochino carenti di acido folico, anche se comunque l'acido folico è contenuto nelle verdure verdi, per esempio anche nei broccoli, come pure anche però in alcuni altri alimenti proteici, il pesce lo contiene, anche alcuni tipi di proteine, però soprattutto le verdure a foglia verde. Siamo in realtà però tutti un pochino carenti, anche perché assumiamo in realtà poche verdure, cioè il consiglio nutrizionale dovrebbe essere ovviamente di aumentare l'introito di verdure e di frutta. Dottor Muzio, quante porzioni? Oh, allora, quale invito a nozze? Dunque, beh, direi innanzitutto 5 porzioni tra frutta e verdura. Ci come si potrebbe chiedere cos'è una porzione, bravo, perché a volte questo è un dato che si dice porzione, ma cosa vuol dire? 2 etti, 50 grammi, mezzo chilo. Allora, per quanto riguarda la frutta e gli ortaggi, direi parliamo di 150 grammi. Sì. Per quanto riguarda l'insalata, invece, che ovviamente ha una superficie molto più ampia e pesa molto poco, 50 grammi. Lei mi parla di insalata, dottor Muzio, io vorrei fare un passo indietro. Allora, la nostra mamma, la nostra donna sta diventando mamma, il test di gravidanza è positivo e quindi così si prepara ad affrontarla. Fa un test della toxoplasmosi, ecco, risulta negativo. E allora la mamma già lì inizia a preoccuparsi: cosa devo mangiare, cosa non devo mangiare, questo mi è permesso. E l'insalata è uno degli alimenti che dà più preoccupazioni. Sarà lavata sufficientemente? Allora, dottor Muzio, così diamo. Oara, tu hai fatto il test e come sei? Sì, io ho fatto il test e sono ai negativa, è un test che mi fanno ripetere analisi del sangue mensili per la toxoplasmosi, per questo, e me lo fanno fare in concomitanza insieme al citomegalovirus. Ora non so, sono due cose che a cui sono risultata negativa e mensilmente me lo fanno fare, e mi hanno detto, ora non so se, di evitare tutti quelli che possono essere i cibi crudi, quindi dal prosciutto agli insaccati crudi e alla carne poco cotta, quindi cuocio tutti gli alimenti e una curata attenzione nel lavare le verdure, io col bicarbonato per dire le lavo, insomma questi sono più o meno gli accorgimenti che prendo io. Dottor Muzio, promossa. Direi, sì, anzi direi che ha risposto buona parte al posto mio. Ecco, quindi possiamo fare qualche piccola aggiunta a queste assolutamente correttissime perché indicazioni. Perché sennò Ara è più brava di lei. Non infatti la cosa mi preoccupa, potrei cimentarmi io come presentatore. Dunque, diciamo che ci sono due possibili fonti di infezione da parte del toxoplasma. Una è proprio la terra, perché il terreno può essere contaminato dalle feci dei felini, che sono proprio quelle che sono un po' il veicolo della toxoplasmosi. L'altra fonte però è proprio la carne di svariati animali, che sono poi i bovini, i suini, gli ovini, quindi capre, pecore, e anche i volatili. In genere, quindi non dobbiamo escludere quella, la carne del pollo, per quindi esempio. Lì si cuoce benissimo, la carne va ben cotta. Siccome il toxoplasma è un protozoo che si inattiva proprio con il calore, possiamo proprio avere la certezza che se noi cuociamo molto bene, stando attenti anche che il centro proprio della nostra fetta di carne sia comunque sia pervenuto il calore sufficiente, abbiamo sicuramente una possibilità di mangiare questo alimento. Tra i salumi, Oara diceva i salumi, gli affettati, eccetera, vietati, il prosciutto cotto. Il prosciutto cotto si può mangiare. Ecco, forse il dottor Muzio, io gli ho servito la parola perché c'eravamo anche un po', avevamo fatto delle chiacchierate, e il dottor Muzio intelligentemente mi ha fatto notare un aspetto che io chiedo di così comunicare anche alle nostre amiche. Sì, sì, diciamo il termine tecnico per definire questa cosa è contaminazione crociata. Cioè, una parola difficile per dire una cosa semplice. Banale. banalissima, cioè che se noi abbiamo tutte le attenzioni e gli scrupoli di questo mondo, ma utilizziamo comunque degli attrezzi che sono stati utilizzati prima per manipolare un alimento che invece era crudo, e classico esempio l'affettatrice con la quale si taglia prima magari il prosciutto crudo e poi senza pulirlo si taglia il prosciutto cotto, ecco che il prosciutto cotto potrebbe risultare, e questa è un'indicazione da dare alle nostre mamme di lavare accuratamente anche tutti gli attrezzini da cucina, quindi coltelli, tante volte nella fretta si passa da un alimento all'altro, quindi cibi crudi, coltelli per i cibi crudi, coltelli per i cibi cotti. Noi abbiamo un minuto ancora prima di lanciare la pausa e professoressa Cettina, anticipiamo che parleremo di ferro. Non so se Oara lo sta prendendo. Oara, lo stai prendendo? No, allora, dunque, io non sto prendendo il ferro, anche perché dagli esami insomma risultavo più o meno sempre un pochino superiore, quindi non sono mai stata carente, se non dall'ultima analisi sono risultata leggermente sotto, quindi un pochino ora comincio ad avere una leggera carenza di ferro, però ancora mi hanno detto che sono dei valori dove non mi hanno dato da assumere ancora nulla, insomma, quindi hanno detto che più o meno siamo abbastanza stabili, quindi devo monitorarlo questo mese con le prossime analisi. Io però volevo fare una domanda veloce se è possibile, sì? Quanto c'è tempo, sempre riguardo alla toxoplasmosi di prima, se c'è qualche differenza nel contrarre eventualmente l'infezione nei primi mesi di gravidanza o dopo, andando avanti magari laddove si dovesse contrarre magari ci potrebbero essere dei rischi inferiori. Perfetto. Ritorniamo subito ad affrontare il tema del giorno, mamme in gravidanza, la salute della mamma e la salute del loro bambino e l'importanza della dieta. Professoressa Cettina, avevo un po' di premura a tornare, perché la domanda che ci ha fatto la nostra mamma, che è Oara Borselli, che è in linea con noi, per chi si fosse messo in nostro contatto solo ora, è molto interessante. Cioè, la toxoplasmosi si può prendere ai primi mesi di gravidanza o anche dopo? Che cosa si deve fare? La toxoplasmosi può dare problemi durante tutta la gravidanza, anzi anche negli ultimi mesi può dare degli effetti abbastanza importanti per il bambino. Però la prima cosa da dire è che bisogna essere anche ben coscienti del fatto che in realtà, per fortuna, sono solo pochi i bambini che si ammalano. Cioè, se la mamma contrae la toxoplasmosi, c'è un rischio che è di circa il 10% che l'infezione attraversi la placenta. Sì. E di questo 10%, soltanto una certa quota, che anche qui è un altro 10% di questo 10%, avrà degli effetti. Mm. Oltre tutto questo, uno potrebbe dire, vabbè, ma c'è qualcosa che si può fare. Brava. Se si dimostra che c'è quella che noi chiamiamo una sieroconversione in gravidanza, cioè che a un certo momento si cominciano a produrre gli anticorpi che ci vengono dati dal risultato del test per la toxoplasmosi, a quel punto si può ovviamente monitorare la gravidanza in un modo diverso dal punto di vista soprattutto ecografico, ma anche fare una terapia antibiotica che dovrebbe ridurre questo rischio. Che è già piccolo. Però c'è. E nel momento in cui il bambino si ammala, in realtà è un rischio piuttosto serio, che poi deve essere anche monitorato, soprattutto in età pediatrica. Professor Zuccotti, sì. Entra in scena prima ancora che il bambino sia nato. Sì, ma io credo che forse quello che chiedeva la nostra futura mamma era anche questo, al di là di quello che diceva la professoressa Cettina, un'ulteriore spiegazione, nel senso che è vero che tutta la gravidanza può essere a rischio di infezione, ma quello che forse lei si riferiva era che nel primo periodo della gravidanza sicuramente la possibilità di contrarre questa infezione è molto bassa, ma quando questo succede ci sono dei gravi effetti sul nascituro, mentre man mano che procede la gravidanza la probabilità di contrarre questa infezione aumenta, ma fortunatamente la malattia, se si esprime è molto più lieve, insomma. Quindi c'è questa differenza, tutta la gravidanza può essere coinvolta, però i primi mesi sono molto a rischio, ma fortunatamente passa poco. L'ultimo periodo è molto, direi, meno, così gli effetti sono meno gravi, ma la probabilità che questa trasmissione avvenga è più elevata. Professoressa Cettina, ferro. Oara non lo prende perché i suoi livelli dicono che è a posto. Giustissimo. Allora, il ferro ovviamente è un oligoelemento fondamentale per tutta una serie di processi metabolici. Entra anche il ferro, come è ben noto, nella produzione dei globuli rossi, dell'emoglobina, quindi in gravidanza è fondamentale averne abbastanza, perché aumenta da parte della mamma anche la produzione della sua emoglobina, avendone più bisogno. Cioè sì, dobbiamo pensare che una cosa che non molte persone magari sanno è che in gravidanza la massa ematica circolante, cioè la quantità di sangue che la donna ha, aumenta di 1,5 litri circa. Da 2,5 litri, 3, arriva a 4 litri, 4,5 litri. Oh, cuore... lo sapevi tu questo? Sì, che c'è comunque anche, no, che il cuore pompa più sangue, insomma tutti, esatto, gli organi, no, sono coinvolti. Sì, principalmente l'utero e la placenta. E poi il momento del parto. E poi al momento del parto ne viene perso in media circa quasi 0,5 litri di sangue, a volte anche di più. Quindi in realtà in gravidanza c'è una progressiva fisiologica emodiluizione, noi la chiamiamo, nel senso che aumenta la massa di sangue e proporzionalmente aumenta di più la parte liquida rispetto alla parte corpuscolata. Quindi questo è fisiologico, però il midollo produce molta più emoglobina, quindi i depositi di ferro vengono un pochino consumati. Ecco, per questo magari nei valori ogni tanto, esatto, anche persone che iniziano la gravidanza con valori assolutamente normali vanno monitorate, perché nel corso dei 9 mesi può magari verificarsi una riduzione. Sì, perché la riduzione fino a un certo punto è fisiologica, però... ma quando scende sotto a valori di 11 grammi per decilitro o di 10,5 grammi decilitro di emoglobina, a quel punto è giusto supplementare con il ferro. Una domanda, Oara, sei all'inizio del 6° mese, quanti chili hai preso? Sai che un tempo le mamme aumentavano di chili spropositati, proprio suggerendo, no, seguendo alla lettera quello che veniva insegnato da quel famoso detto mangia per due. Quanti chili? No, io non sto mangiando per due, mangio, diciamo, per me, forse un pochino, l'appetito è sicuramente maggiore, però io devo dire la verità, per ora sono stata abbastanza brava, per due motivi. Innanzitutto io ora ho preso sui 4,5 kg, diciamo, dall'inizio. Sì. Sono partita a 56 kg, ora sono intorno ai 60, ma più che altro perché io ho avuto nausee fortissime fino al 4° mese, quindi non ho avuto la possibilità di ingoiare nemmeno un cracker per quattro mesi. Comunque, diciamo, mi sono rifatta ora. Comunque, Oara, vedevo la professoressa Cettin che diceva bene, perché voi perché professoressa Cettin, l'aumento di peso deve rispondere a delle determinate variabili, cioè avete dei parametri, dei paletti? I paletti sono molto importanti proprio dalla seconda metà della gravidanza in poi, quindi più o meno dove si trova adesso Ara, nel senso che dal 5° mese in poi l'aumento deve essere abbastanza costante di 1,2 kg al mese. E questo è l'aumento ottimale. Nella prima metà ci possono essere molte variabili, appunto la nausea, piuttosto che magari una persona che è sovrappeso è meglio che non aumenti troppo, o una sottopeso al contrario deve aumentare un po' più morbidina. Esatto. Allora, Oara, noi ci portiamo avanti, arriviamo a casa con il bebè, chiamiamolo bebè perché non sappiamo se sarà maschio o sarà femmina, e le mamme anche se ci sono questi corsi che sono assolutamente importanti, insomma si trovano a tu per tu con questo faccino e si rendono conto che lui dipende, o lui o lei dipende totalmente, no, dalla mamma. È una grande responsabilità, professor Zuccotti, lei che come pediatra diventa un po' l'elemento, no, che unisce la mamma e il bambino, a cui la mamma può raccontare un po' le paure, nello stesso tempo il bambino glielo affida. Che cosa le raccontano le mamme? Come diceva giustamente lei, ricordava, cioè ci sono questi corsi di preparazione al parto che oggi sono sicuramente di grande aiuto, perché vuol dire mandare a casa delle mamme che hanno già una conoscenza. Adesso, sì. Oara adesso per esempio è bravissima, immagino che sa già, sì, tutto della nascitura. Sì, però Oara lo sa bene che tra la teoria e la pratica, certo, poi quando poi uno deve essere lì al lato, il bambino piange, certo, devi cambiarlo. Sì. No, ci sono questi due momenti importanti che hanno cambiato molto la storia e anche direi forse contenuto le preoccupazioni delle mamme, che sono i corsi di preparazione, il fatto che nei primi 2, comunque 3 giorni, dipende da quanto poi la mamma si fermerà in ospedale, il bambino sta 24 ore su 24 con lei e quindi ha la possibilità di prendere un po' prendere misure, contatto, capire, perché poi onestamente si capisce subito fin dalla nascita che tipo di bambino o bambina sarà, se è un bambino tranquillo piuttosto uno che orientato a creare qualche problema anche a casa, si ha subito la percezione e di solito si sbaglia poco, di solito si dice la mamma è fortunata a casa, perché non voi avrà molti buttate problemi. L'occhio e vedete che ci sono già dei tipini tosti, perché sì, già dalle prime ore, comunque dalla prima giornata ci sono delle reazioni che fanno preoccupare o meno soprattutto i genitori sul proseguo dell'assistenza. Però ecco, la preoccupazione delle mamme soprattutto è quella rivolta all'alimentazione. Sì, riuscirò ad allattarlo. Oara, tu pensi di allattare il tuo bambino? Io spero di averne la possibilità in natura, nel senso, se mi viene dato il latte assolutamente sì. Ma proprio perché non mi perderei, primo, per nessun motivo al mondo, proprio quel momento di contatto con la creatura, proprio per me sarebbe una violenza, voglio dire, evitarmi questa cosa volontariamente. Secondo, perché credo onestamente che se la natura ha voluto che gli si desse il latte naturale, se c'è, perché non farlo? Certo, d'altra parte l'OMS parla molto chiaro, professor Zuccotti. Sì, assolutamente. Raccomanda l'allattamento al seno. Ormai ci sono indicazioni a tutti i livelli dell'importanza. È sempre stato importante l'allattamento al seno. Purtroppo per alcuni anni si era un pochettino perso di vista l'importanza di questo alimento, adesso la si sta finalmente recuperando e quindi hanno con vantaggi per la sua salute e per quelle della mamma. Esatto, tra poco parleremo dell'importanza dell'allattamento al seno, se è il caso che la mamma segua ad esempio una dieta un pochino più ricco, più vario, più insomma un po' diversa. Siamo tornati insieme, ci eravamo lasciati, professor Zuccotti, alla mamma e al bambino, alla mamma che allatta. L'allattamento al seno super raccomandato, vantaggi ce ne sono tanti. Iniziamo dai vantaggi per il bambino e poi la professoressa Cettin ricorderà quelli per la mamma. Ci sono vantaggi che assolutamente banali iniziali, cioè che possono essere quello che dicevamo prima, costa molto poco e questo è già un aspetto, è sempre pronto alla temperatura giusta, perfetto, assolutamente igienico e quindi non abbiamo problemi di diluizione, non avrò sbagliato, oggi esistono anche i latti liquidi, ma però direi che è un alimento perfetto da questo punto di vista. Dopodiché ci sono una serie di vantaggi nutrizionali assolutamente importanti che riguardano per esempio la quota proteica, è un latte che ha un quantitativo di proteine abbastanza ridotto, ha un giusto rapporto tra caseina e albumine e tutto questo oggi è molto rivalutato perché si è visto che l'apporto proteico o comunque un controllato apporto proteico nei primi mesi di vita o comunque nei primi anni di vita è sicuramente in grado di prevenire obesità e sovrappeso in età successiva, quindi per questo aspetto. Poi ci sono tutta la parte dei lipidi, anche qui con acidi grassi a lunga catena. Insomma è un elisir, sicuramente è un alimento assolutamente ripetibile, anche se come poi quando ne parleremo i latti oggi artificiali si stanno avvicinando molto, ma non potranno mai pensare di riprodurlo totalmente. Professoressa Cettin, ricordiamo, ma ormai le mamme sono assolutamente consapevoli che l'allattamento al seno sia il modo migliore per nutrire il loro bambino e conoscono già i vantaggi anche per la salute, perché ci si guadagna in due, ma come si dice repetita iuvant, le donne che allattano al seno sono più protette dai tumori del seno prima di tutto, e che non è poco, e poi anche dell'ovaio, dell'utero, tutti i tumori dell'apparato genitale femminile che sono estrogeno dipendenti, perché chiaramente con l'allattamento si prolunga una fase in cui gli estrogeni sono mantenuti a livelli ottimali. Dottor Muzio, rapidamente, perché poi così riusciamo ad avere anche il tempo per aprire una piccola finestra sui latti artificiali. La mamma che allatta deve seguire una dieta diversa rispetto a quella di cui abbiamo parlato, che ha seguito durante la gravidanza e nel pre-gravidanza? Un tempo si diceva bevi birra che fa latte, adesso che cosa si dice? Ma questo magari lo possiamo anche lasciare appunto alle nostre nonne. Sicuramente per quanto riguarda l'aspetto quantitativo bisogna proprio fare i conti con la produzione del latte, che richiede una quota calorica abbastanza consistente, intorno alle 500 calorie che vanno quindi aggiunte. Siccome già in gravidanza avevamo aumentato la quota intorno alle 300-400 calorie, ecco che ancora quindi un pochino porzioni più, leggermente più grandi? Sì, meglio distribuite in modo diciamo abbastanza vario su tutta l'alimentazione della giornata. Meglio gli spuntini frequenti oppure manteniamo lo schema classico, colazione, spuntino di metà mattina? La colazione è assolutamente fondamentale e se possibile anche qualche spuntino. Qua e là. Certo. Quindi prendi nota, Oara. Assolutamente. Può dipendere, io una sola cosa, io non bevo latte proprio da quando quasi sono piccina perché non mi piace. Nonostante ciò, tutti i derivati dal latte li mangio, quindi da yogurt e formaggi. Questa cosa può, il fatto che io non beva latte, incidere magari su un'eventuale produzione di mio latte oppure sono due cose indipendenti? Il latte ha una sua produzione diciamo abbastanza indipendente, a qualche modo, però sicuramente il suo contenuto, per esempio in calcio, è molto dipendente, anche perché le fonti di calcio che noi abbiamo non sono tante. Però se Oara mangia tutti i derivati del latte e anche se non beve latte, certo, possiamo dire che il pupo avrà un latte magnifico. Ecco, allora invece, piccola parentesi sul latte artificiale a cui dovremmo dedicare un'intera puntata, sono tutti uguali o il prezzo fa la differenza perché la ricerca costa? Certo, sì, no, non sono tutti uguali, anche se si tende a farli passare come tutti uguali, questo è sicuramente sbagliato. Dicevamo prima della unicità del latte materno, le aziende da anni impegnate nella ricerca stanno cercando appunto di rendere il latte vaccino, che è il latte con cui si parte per produrre il latte artificiale, sempre più simile al latte di mamma. È un processo, ripeto, che non porterà ovviamente a questi risultati, ma che ha dato già dei grandissimi risultati, nel senso che i latti oggi contengono moltissimi alimenti funzionali che avvicinano sempre di più il latte artificiale a un Anche il messaggio che possiamo dare, anche i bambini che, se le loro mamme non possono, vengono cresciuti con il latte artificiale, crescono bene. Credo che il messaggio sia questo, quello che è importante, che il latte materno deve essere il primo alimento e quindi le mamme devono sempre concentrarsi e insistere su questo tipo di alimentazione, però è anche giusto rassicurare quelle mamme che per motivi vari, per motivi di salute o perché non hanno purtroppo produzione di latte, di stare tranquille. Esistono dei latti buoni, esistono dei latti che consentono una crescita assolutamente sovrapponibile a quella del latte materno. E quindi queste non si devono sentire in colpa, perché molte volte subiscono un pochettino questa cosa. Sì. Quindi questo deve essere molto rassicurante, come è giusto anche dire, ripeto, che non tutti i latti sono diversi. I costi di un latte rispetto all'altro sono giustificati, non dico sempre, ma quasi sempre, dal diverso contenuto di ricerca, quindi di alimenti funzionali, di integrazione che hanno reso veramente hanno arricchito queste formule. Io chiedo e do la possibilità alla nostra mamma, ad Oara, ti lascio proprio un paio di minuti perché se ti è rimasta una domanda, noi abbiamo cercato di un po' spaziare con i nostri esperti tutte quelle che potevano essere i punti chiave, le domande, i dubbi delle mamme, ma sicuramente tu che sei al sesto mese di gravidanza hai magari ancora un dubbio, una cosa da chiedere ai nostri esperti, allora, sono qua. Come no? Allora, una domanda è che di una cosa che non è stata toccata, che io faccio, magari può sembrare, per quanto riguarda lo sport in gravidanza, io ora sto facendo, ad esempio, sto praticando nuoto abbastanza in maniera piuttosto assidua, cioè del tipo 2 o 3 volte alla settimana. Questo un nuoto abbastanza regolare, non sì, corsi. No, diciamo, certo. Ecco, può questa cosa, insomma, è positiva oppure è una cosa che è più fa meglio a me e magari per il bimbo, sì, non lo so, ecco, questa. Allora, professoressa Cettin, lo chiedo a lei come ginecologa, ma anche come da donna a donna. Le lasciamo il dottor Muzio e il professor Zuccotti. Ma no, bravissima, perché ha toccato un argomento che noi non avevamo toccato. L'attività fisica è assolutamente importante, come lo è importante in altri momenti della vita, in gravidanza è assolutamente molto importante. È stato dimostrato che fa andare meglio la gravidanza, i bambini nascono con un peso migliore, la gravidanza comunque va meglio. E forse anche più contenti, perché sì, lo sport più, abbiamo visto, l'attività fisica migliora l'umore e quindi della mamma e del suo bambino. Quindi buone nuotate ora, Borselli, aspettiamo, vogliamo sentirti presto per capire come va. Come no, io sono a completa disposizione, per me è stata una chiacchierata piacevolissima, anche perché insomma, a parte non si finisce mai di imparare, poi è sempre piacevole essere accompagnati da esperti in questo percorso, perché i dubbi sono sempre veramente tanti. Allora, quindi, se hai dubbi chiamaci, chiamaci, intanto noi aspettiamo l'evento e sarà a settembre, vero? I primi di settembre. Allora, un abbraccio a Borselli, ringraziandola per essere state con noi, ringrazio naturalmente i nostri esperti, la professoressa Cettini, il dottor Musso e il professor Zuccotti, che invito a tornare a trovarci presto. Grazie. Perché il mondo delle mamme è veramente un mondo magico, magnifico, di cui si parlerebbe per ore. Grazie a voi e buona giornata. E adesso, prima di salutarvi, voglio salutare Benedetta Spada, che torna a trovarci suggerendoci dei consigli, insegnandoci degli esercizi di yoga che possiamo fare da soli e a casa in qualunque momento, non solo a casa, magari anche quando siamo in macchina. Benedetta, ciao, benvenuta. Ciao, salve a tutti. Ho esagerato, questo yoga portateco, ma a volte può essere utile anche qualche esercizio da imparare, da eseguire, magari quando ci sentiamo particolarmente stanchi dopo ore e ore passate in macchina a guidare. Quando si scende dopo un viaggio lungo, ecco che ci sentiamo un po' tutti intorpiditi, affaticati. In questo caso un esercizio può in qualche modo fare la differenza. Ad esempio? Consiglio, e questo vale sia per il pubblico femminile che per il pubblico maschile, di sostare qualche attimo in postura verticale, divaricando i piedi quanto l'ampiezza del bacino. Spostare il peso del corpo alla gamba sinistra, rivolgendo lo sguardo avanti a noi a un punto fisso. Sollevare la gamba destra piegata e disegnare nell'aria dei piccoli cerchi, in senso sia orario che antiorario, per mobilitare appunto la zona delle anche. Poi ritornare dopo qualche secondo con il piede destro a terra, spostare il peso del corpo al piede destro e sollevare la gamba sinistra, ripetendo lo stesso medesimo esercizio. Questo libera molto appunto questa zona particolarmente impegnata e ci prepara quindi poi al limite a altre tante ore in auto oppure a una piacevole serata. E per oggi è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e come sempre vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.